C'ho in cantina vecchie musicassette che girano, una finestra aperta, l'aria estiva che entra. Ascolta, ti ricordi? Le nostre magliette sbiadite e consumate, le spillette sul giubbotto di jeans. Vedo ancora la tua faccia quando suonavi le musicassette, risate silenziose, le corse per le strade vuote, il tempo passa troppo velocemente. Le musicassette ascoltate a lezione, se musica scatte in petizione. Era un po' di tempo prima che il mondo diventasse un casino, le scarpe da tennis che raschiano il terreno. Eravamo solo ragazzi, gridavamo forte, ogni notte sembrava infinita, non dormivamo mai, cantando al mondo, sempre all'attacco. Eravamo vivi, non si tornava indietro, non torneremo mai, non torneremo mai più indietro. I poster attaccati sul muro, i disegni e le frasi sbiadite, quanti discorsi a tarda notte, e i genitori lasciati ad aspettare. Affogarono il nostro futuro con brutte canzoni d'amore, pensavamo che niente potesse mai andare storto. Eravamo da qualche parte prima che il mondo diventasse freddo, erano tempi migliori prima che invecchiassimo. Eravamo solo ragazzi, gridavamo forte, ogni notte sembrava infinita, non dormivamo mai, cantando al mondo, sempre all'attacco. Eravamo vivi, non si tornava indietro, non torneremo mai, non torneremo mai più indietro. Pensieri ti perseguitano anche quando le luci si spengono, riesci ancora a sentire quel battito, il ritmo di tutti noi. Ricordo tutto ciò che ci mancava e niente ci restituirà quella sensazione. Eravamo solo ragazzi, gridavamo forte, ogni notte sembrava infinita, non dormivamo mai, cantavamo torneremo mai, non torneremo mai più indietro, indietro.